It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il livello di panico è sempre altissimo, K e Drago stanno per raggiungere la casa dello spacciatore Pupo in compagnia del pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Vabbè ragazzi, io ho una teoria sugli spacciatori, volete sentirla? Se proprio dobbiamo. Allora, secondo me ogni spacciatore è anche un informatore della polizia. È inevitabile, ci sono scambi di favori che noi nemmeno immaginiamo. Quindi, prima di andare lì da Pupo e vendergli una partita di paroxetina, è meglio pensarci bene, dai. Ma chiudi quella bozza di becco che ti ritrovi sotto il naso, eh? Ma come, dai, vuoi forse negare l'evidenza? Proprio tu che sei un voltagabbana di cui sarebbe meglio non fidarsi. Vabbè, su questo... Drago, tu o leggi troppi libri di poliziotti corrotti o vedi troppi film sempre di poliziotti corrotti. Ma veramente basta seguire la cronaca dei giornali, dai. Ma sta zitto, segui, va. Anche tu, Kappa. Sono qua, sono l'unico che non dice niente. Venitemi dietro, senza pestarmi però, eh. Vuoi piano lì in alto, sì, però che tu stai attento dove vai. Aia. Drago. Aia. Ah, scusa. Ma Drago, cosa fate? Aia. Scusa, aia. Pollo, scusa, abbi pazienza. Ma smettetela. Vabbè. Ma che ora è? È mezzanotte. Eh? In una notte come questa potremmo fare ben altro. Dillo forte, Drago. Invece stiamo andando a incontrare un pericoloso spacciatore. Invece avessimo un pianoforte. Ma che pianoforte? Potremmo suonare languidamente dedicando la nostra musica alla luna e alle stelle. Ma di cosa stai parlando? Ma che luna? E che stelle? Non vedi che qui è tutto buio? E state attenti a non pestarvi allora. Però in fondo, Drago, hai ragione. Ma scusa, un pianoforte, un bicchiere di rum, una gallinella sorridente. Tutta la notte per noi. No, non tu, Pollo in sbattimento, la gallinella. E io? Aia. 1787 und es ist Nacht. Ich habe kein Geld und fühle mich schwach. Zum Glück haben sie mir eine neue Komposition aufgetragen. Ich komponiere sie heute Nacht und morgen früh ist erledigt. Die vier Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den vier Sätzen der klassischen Sinfonie. Ah, das ist gut. Die vier Sätze der kleinen Nachtmusik entsprechen den vier Sätzen der klassischen Symphonie. Ach du Scheiße, andere Melodie. Und die Matratze, ist das Beste, was es gibt. Ja, das ist gut. Fertig. Poliziotto buono, poliziotto cattivo. Sono cazzate. No, è roba da telefilm. Tanto è tutto dentro la stessa persona. Io, per esempio, ho scelto di stare dalla parte dei buoni perché a me mi piaceva fare il cattivo. Girare armato, urlare, picchiare 4 contro 1, andare in macchina contro mano o magari scroccare da bere nei locali. È vero, perché quando non si vede la divisa, quando non si sente la sirena, è faticoso distinguere uno sbirro da un balordo. È per questo che ogni tanto ci spariamo tra colleghi. Non è mica distrazione, no. È eccesso di zelo. Lo ammetto, Quello che mi attirava della carriera in polizia era la libertà da un certo numero di leggi. E poi ho cominciato a lavorare nella pattuglia di notte e le cose sono un po' cambiate. Ho chiesto io il turno dopo la mezzanotte. Pensavo rendesse ancora più semplice la vita sul confine, no? La confusione delle acque limpide con le acque torbide, no? E invece adesso è come se avessi cambiato lavoro. Perché non è mica vero che la notte dei criminali. Tu reggi la testa degli ubriachi, tamponi i lividi delle puttane, asciughi le lacrime alle mogli, sfili la lama dalla mano di uno che è violento, riporti a casa dei ragazzini in acido, estrai una vita dalle lamiere e poi ne scopri un'altra che si è spenta per il freddo, per la fame. E questo qui è il mio lavoro adesso. E io non so ancora come definirlo. È uno strano mestiere questo, che di giorno ti fa fare la vita del criminale e di notte è quella del prete. Ma mai, comunque, quella del poliziotto. La fabbrica di polli! Allora, siamo arrivati. Questa è la cloaca. Drago, la cloaca massima. Sì. Stai concentrato. Attenzione. Dov'è Puppo? Non guarda... No, come calma. No? Non guardatevi intorno, eh. Fate finta di niente, camminate dietro di me come se foste qua così, per caso. Per caso. Va bene. Tranquillo, Polo, siamo tranquilli. Cappa. Guarda quel fagiano collassato. Ma dove? Là. Poveretto, ma in che stato? Hai visto? Ma no, sa cosa zitti! Ve l'ho appena detto, no? Cosa? Non state lì a indicare col dito, vi fate lottare così. Chissà cosa succede. La cloaca massima è pericoloso, eh. Pensate che una volta una partita a briscola è trasformata poi in una strage. Sì, vabbè, ma non c'è nessuno che gioca a briscola. E beh, per forza, dopo quella volta chi è che prende in mano un mazzo di carte, scusa, Ma scusa, ma Pupo abita in questo inferno? Ma Pupo può uscire infartato due volte? Appunto. Non è mica un damerino come voi due. Che damerino? Io ho tutte le scarpe incrostate di cacca di gallina. Allora, siamo arrivati. Questa è la porta del pollaio di Pupo. Però è meglio che vada io da solo prima, Non mi va di farmi vedere con delle facce sconosciute. No, siamo venuti a fare, vabbè. No, perché, Pupo non si fida di nessuno. Quello è un pusher, E fa bene a non fidarsi. Poi non può neanche agitarsi per via degli infarti. Quindi è meglio che voi due restiate sotto casa mentre io vado su a smazzare la paroxetina. Ma come l'hai imballata? Ho fatto un involucro, no? Tipo quello della centrale di Chernobyl. Sai che hanno costruito intorno alla vecchia centrale un involucro, no? Eh beh, certo, sì. Cristo. Ecco, e lì per toglierlo, no? Quell'involucro, io e Pupo dobbiamo seguire il protocollo di Chernobyl proprio. Vabbè, tu stai tranquillo, Polo, perché noi aspettiamo, stiamo qui. Se sentite sparare, restate giù, Ma come se sentite ma sparare? Ma sì, dai, è solo un modo di dire. Ma che modo di dire? Voi se sentite sparare, state giù e basta, io torno subito. In the middle of nowhere. Cioè, non ho capito. Se noi sentiamo sparare, che cosa dobbiamo fare? Drago, non è difficile. Dobbiamo buttarci a terra e stare giù. Sì, ma ti sembra una cosa normale, un avvertimento? Drago! Stai giù, vedi? Ma stai cosa giù! C'è? Ma cosa, cosa c'è? Non lo so. Pupo si deve essere incazzato per qualcosa. Stai giù, sì, Drago. Sì, sì, sto giù. Cappa, ma sono voci che parlano in francese. Stai giù, francese. Non è francese, è più belga. Lo senti? Dice septon, we don't. Drago, stai giù, non fiatare. Questi qui sono i mercenari del colonnello Unghiute, hai capito? I mercenari belgi. Belgi, appunto. E cannibali. Quindi non era Pupo a sparare. No, sono le truppe di Unghiute. E adesso sono qua, E te ne accorgerai. Attento a quel che fai. Attento, ragazzo. Che cosa succederà adesso? Le truppe di cannibali belgi del colonnello Unghiute intralceranno la cessione di paroxetina a Pupo? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo malavitoso allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Devo comprare un kazoo. Tarek, devo comprare un kazoo. Barlumen.